quando mi guardi tu, un desiderio che non mi lascia più, freme la vita, mi avvicino a te, mi scorda il mondo e tu lo sai perché. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, per dirti ancor nei baci miei che cosa sei per me. Un'ora sola ti vorrei, per dirti quello che non sai, ed in quest'ora donerei la vita mia per te. La vita mia per te, la vita mia per te.